cerco di dormire, non mi basto proprio più, voglio il cielo, voglio il mare, cosa voglio? Non sei tu e nessuno mi dà amore, ma domani si vedrà, perché io sì, qualche cosa farò, ma sì, ora io me ne andrò da qui. Dentro un bosco di ricordi, scovolando verso te, non mi sento già battuto, vedo il sole che non c'è, ma se tu non mi saluti, anche il mondo cadrà giù. Allora sì, qualche cosa farò, io sì, mai più piangerò così. Il mare, la mia mente, vedo il sole, vedo niente, scende giù l'arcobaleno, un gabbiano grida e va. Non mi pento di capire che chi voglio non sei tu, e quindi sì, ora io me ne andrò, ma sì, mai da te tornerò. Così, così, così. Sì, io mai più morirò. Io sì, il mio mondo farò.